questo penso che ormai l'abbiano capito tutti, lo stanno capendo anche i funzionari della questura. In questo momento c'è un contatto in corso, perché vorrei dire una cosa, poi so che fischierete, ma devo dirle lo stesso. Il problema non sono i poliziotti che stanno qui, perché loro non vedono l'ora di andare via. Il problema è che a loro deve arrivare un ordine ormai dal ministro. Quindi noi abbiamo ripreso il prato, adesso riposizioniamo il container, staremo qui stanotte e staremo anche nei prossimi giorni, a meno che in queste prossime ore il governo non gli dia l'ordine di abbandonare il cantiere, perché è chiaro che è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello, che questo cantiere non può tenersi in piedi contro un intero territorio, contro tutte le amministrazioni comunali di questo territorio. Però adesso bisogna gestire questa situazione, bisogna gestire, perché le forze dell'ordine stanno aspettando ordini dal ministro, perché a questo punto l'unico che può sbloccare la situazione è il ministro. Noi però abbiamo... Guardate, so benissimo, è presente in tutti noi che cosa è successo l'altra notte, sappiamo tutto, non dobbiamo ripetercelo più volte. L'unica cosa che noi dobbiamo adesso fare è gestire questa situazione, che non è semplice. Le forze dell'ordine sono in difficoltà, ed è chiaro che noi stiamo tenendo adesso la trattativa per cercare di fare in modo quali sono le disposizioni che arrivano direttamente dal governo. Perché è chiaro, quello che è successo oggi dimostra una cosa, che questo cantiere è indifendibile, quindi nessuno può pensare di difendere questo cantiere. Quindi questo è chiaro, l'hanno capito anche loro, possono far arrivare rinforzi, quello che vogliono, ma questo cantiere, e questo sarebbe solo il primo dei tanti cantieri che dovrebbero essere aperti, quindi loro non possono pensare che si possa lavorare, una cosa è fare i blitz di una notte, ma non possono pensare, e devono relazionare al governo, che non è pensabile che in una valle si possa tenere questo cantiere e altri 10 cantieri con l'uso della forza. La dimostrazione di oggi non dovevano far scendere i cittadini, ma in una valle questo, ci sono decine di sentieri, decine di percorsi, e questo ormai lo stanno perfettamente capendo, e quindi siamo in contatto col questore e col prefetto perché questo avvenga. Dobbiamo gestire però tutti insieme questa situazione. A noi non conviene, lo so che uno può avere rabbia dentro, ma a noi non conviene assolutamente a questo punto, avendo il completo possesso del territorio, non conviene assolutamente che ci siano scontri. So che hanno tirato i lacrimogeni, ma voglio dire, ci sono in un confronto come questo, è chiaro che ci sono anche dei momenti alti di tensione. Noi come movimento abbiamo anche tirato tante pietre, quindi voglio dire, adesso ne abbiamo prese anche noi, ho preso tanti quei pugni, ma da noi, non dai poliziotti. Devo dire, io ho preso un sacco di pugni in testa, ma da noi, non dai poliziotti. E ho una ferita alla gamba, da noi, non dai poliziotti, è tanto per dire. No, ma dico da noi, perché questo è il movimento, questo è il movimento. Quindi adesso bisogna assolutamente gestire questa situazione. Il microfono è a disposizione di tutti. Penso che in quanto a democrazia non possiamo, quindi questa non è una vittoria del movimento, un movimento al plurale dove ci sono tutti. L'unica cosa è che adesso insieme gestiamo questa situazione. Vi prego, non abbiamo bisogno di provocare i poliziotti, anche loro sono nervosi, probabilmente molti di loro non sono e non erano quelli che hanno fatto i blitz. Anche loro ormai hanno compreso che non possono restare, non vedono loro di andare via, però non dipende da loro. Quindi confrontiamoci tutti, chiunque ha delle cose da dire. È chiaro che tenteranno di mandare giù su altri uomini, ma possono mandare 300 uomini, 400 uomini, 500. Qui c'è un'intera valle con molti amici anche arrivati da fuori che ringraziamo, e contro un'intera valle non c'è cantiere che tenga. Quindi ognuno di noi che ha rapporti con qualcuno, lo dico con un eufemismo, che è un po' più caldo di noi, che è un po' più caldo di noi perché ha bevuto un po' di più, perché è più terrone ancora di me, e quindi probabilmente è un sangue un po' più caldo, cerchiamo di controllare tutti insieme la situazione. Qui tutti hanno dato una mano stamattina. Hanno dato la mano, che sarà dura l'hanno capita, non ti preoccupare, che sarà dura l'hanno capita, perché oggi avevano 2000 uomini e noi non dovevamo scendere a Venaus, loro hanno dovuto arretrare i 2000 uomini e noi siamo sul sito di Venaus. Allora a questo punto o usano le bombe a napalm oppure questo territorio per loro non è difendibile. Poiché questo non succederà, noi continueremo il confronto con il governo perché dia le disposizioni giuste alle forze di polizia. Campagne